Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È raro che io di solito mi soffermi a cercare di estirpare informazioni o confidenze ai passeggeri che incontro, ma è ancora più raro che queste confidenze, che di solito colgo in maniera del tutto casuale con persone che incontro, che forse non rivedrò più, ma se le rivedo soltanto per una sorta di avventura della sorte, che io invece vada a ricercare sui loro percorsi abituali dei passeggeri con cui ho già parlato. Questa volta non ho potuto sottrarmi all'imperio che mi veniva dalle persone che mi hanno ascoltato e mi hanno scritto. Vogliamo saperne di più sul misterioso viaggiatore che hai sentito l'altra volta. Sì, il nostro fantastico interlocutore, che sembra che abbia viaggiato più volte in giro per il mondo e fatto degli incontri più strani, più perigliosi, più rocamboleschi, sapevo che si muoveva sulla tratta Genova Costiera. E quindi ho, con molta pazienza, preso treno su treno su treno finché non l'ho rincontrato. E adesso, vi giuro, non lo mollerò mai più. Io ho vissuto 8 anni in Indonesia e 8 anni in Brasile, grosso modo. In Indonesia ero a Bali, Denpasar. Bali era di una bellezza straordinaria, rovinata dagli olandesi, che la famosa compagnia delle spezie indiane era Denpasar, alla vecchia capitale Yogyakarta era. Pensi che in Indonesia... Ma lei che faceva? Lei a Bali che faceva? A Bali facevo il balinese. Aveva bei soldi quel periodo, viveva di rendita? Ma vivo ancora oggi di rendita, perché io ho sempre lavorato con i dollari e le sterline inglesi e non ero esagerato, cioè facevo quello che dovevo fare, prendevo i miei 5, 6, 10 mila dollari ogni 2 o 3 mesi, e si figuri, in Indonesia dove c'è la rupia, in Brasile dove c'era, quando sono arrivato, ancora il crusero, il crusado. Io ho vissuto le dittature di Delfineto, di alle prime persone che all'uso ha visto anche cose probabilmente non bellissime. Sì, però c'è una cosa, che l'uomo c'ha sempre qualcosa di buono da dare. Ti dico che io, quando ho conosciuto Escobar, io quando tornavo a Genova, che avevo ancora mia madre, mia nonna, la famiglia in vita, chiamiamola così, perché ho fatto 15 anni, ho giocato a pallanuoto, caro dottore, e poi mi hanno messo nei lagunari San Marco a Ronco dei Legionari. Nei Marò, negli incursori? Incursori. E lei ha fatto azioni di guerra, no? Sì, sì, sono l'ultima guerra che ho fatto, l'ho fatta a Timor. Racconti questo, mi interessa. Lei Marò mi interessa. Senta, io ho fatto l'Accademia Militare poi a Pozzuoli. Sono uscito tenente ufficiale, sottufficiale dagli F-104. E la prima incarico che mi hanno dato era la Libia, poi la Jugoslavia, ho fatto poi tutta l'Africa. Sono stato a Kampala, sono stato in Uganda, sono stato a... di dove alla fine del Nilo, Nilo Nero, Nilo Bianco, a Khartoum. Ma cos'era, della legione straniera o in qualche corpo speciale? No, noi eravamo affiliati come gruppo di sostegno. Quindi era esercito italiano, a tutti gli effetti? Noi eravamo sotto il Ministero degli Esteri e la NATO, e le incursioni che facevamo, addirittura ho avuto poi delle conseguenze. Pensi che mi hanno mandato a fare la transamazzonica. Quindi ha combattuto, ha conosciuto il combattimento? C'ho tante cicatrici, sei in corpo. Di arma da fuoco o da taglio? Da fuoco, da taglio Fortunatamente no, perché c'era scritto costa più pallottola che uomo, e lo sa cosa facevano quando prendevano... Dove questo? In Uganda soprattutto le tagliavano il tendine d'Achille, le lasciavano per terra, si figuri, un uomo ci vuole un anno perché si ristabilisca con 2 o 3 operazioni. Quindi lei ha rischiato anche questo? E ho rischiato tanto, lì ci davano tanti soldi. Penso che io tornavo in Italia, un giorno ero un idraulico che veniva dalla Svizzera, un altro giorno ero un carpentiere, un giorno un pescatore, perché l'anonimato era assoluto. Quindi partecipava delle operazioni NATO con corpi speciali? In Italia ho partecipato per il ritrovamento di Fabrizio De André, e ho partecipato anche quando avevano preso quel generale americano a Verona, se lo ricordo. Dozier. Ci mandavano a sbaraglio, eravamo tutti ragazzi. Quindi era parente nei servizi, qualcosa del genere? Sì. Come si chiamava il servizio allora? Guardi, c'era, quando ha cambiato tanti nomi, perché Cossiga ne ha cambiati tanti che alla fine non si sapeva più. Sarà stato il SISMI se era militare. Il SISMI era il, diciamo, la fragola sulla torta, però c'erano tante derivazioni. Vabbè, comunque, diciamo, mi racconti qualche operazione avventurosa nella sua versione bellica. Vediamo questo viaggio. Allora, Fabrizio De André, perché rapiscono un cantautore? Se l'ho mai domandato? Perché è un personaggio noto, quindi si paga. Esatto, però il personaggio noto era il padre, che Fabrizio De André è un figlio illegittimo del amministratore delegato dell'Eridania Zuccheri. Sa che l'Eridania Zuccheri è una multinazionale spaventosa come la Coca-Cola e la Marlboro. Uh-huh. E il riscatto l'ha pagato il padre. Ah, quindi non si sa questa genealogia di De André. Comunque aveva un padre naturale molto ricco, che ha dovuto pagare. I rapitori lo sapevano, hanno pagato. Hanno pagato, ecco. Però capisce, io tante volte quando vedo i sequestri ancora adesso penso che la manovalanza di istruzione sia sarda, Time to close up the chest now, baby. It's time I know to make up the rules. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non voglio assolutamente censurare quelli che sono i racconti della vita avventurosa, quasi incredibile, romanzesca, di questo nostro amico viaggiatore. Certo è che è una cosa che sconvolge il fatto che lui sembra che si trovi ovunque, sempre nei momenti più particolari, più pericolosi, più cruciali anche della storia del nostro paese. E i particolari che lui mi riferisce rispetto anche agli oggetti, alle circostanze, alle date, alle persone, ai nomi, sono sempre esattissimi, come se lui avesse una sorta di Wikipedia interiorizzata che abbia la possibilità di portare immediatamente in superficie quella che è la storia degli ultimi 50 anni. Questo mi fa pensare che in realtà non sia un millantatore, non sia un fantasioso accrescitore di episodi, sia una persona che per circostanze che io non posso conoscere, non posso sapere e nemmeno voglio sapere nei particolari, abbia veramente attraversato quelli che sono i momenti segreti della storia degli ultimi decenni. Senta, ma che tipo di operazione ha fatto lei, ad esempio, sul rapimento di André? Di intelligence sul territorio? Siamo andati in Sardegna, tutta nella zona, a pattugliare. C'è delle barzellette da raccontare, perché sono arrivato in un posto armati fino ai denti, e c'era un pastore sardo. Che dotazione aveva di armi? Che tipo di armi aveva allora? Noi addirittura ci davano il Thompson. Thompson della seconda guerra mondiale, calibro 45. Sì, ma sa, quello lì è pericoloso nei 35 metri perché è a nastro. Sì, taglia a metà in effetti. Taglia a metà e soprattutto ci davano armi che risultavano in disuso. Sì, perché erano armi militari della seconda guerra mondiale americane, strano. Americane, esatto. Non si usavano già più in Italia quelle armi lì. No, ma ce le davano proprio per... ce le davano con cognizione di causa, mi capisca. Perché almeno se sparate con queste è difficile, che non sono armi ufficiali in dotazione alle corpi. Infatti l'addestramento era che ci mettevano in una camera al buio e dovevamo montarle e rimontarle. dovevamo farci il taglio sulle pallottole che è vietato in tutto il mondo. E così si espandono e ammazzano prima. Sì, fanno un po' più male, ecco, diciamo così. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. E l'Indonesia è stato, ad esempio, nella Sumatra, Giava, sono stato nel Borneo e ho visto delle cose incredibili. Ce ne racconti una. Gli indios conoscevano il silicio, che è un conduttore termico, ancora prima che i francesi inventassero il computer, che poi si chiamava ordinatore. Quindi c'era un Silicon Valley in Indonesia. Il Silicon Valley c'è in Indonesia. Indonesia. È vicino a Borobudur, il tempio più grosso musulmano, fatto tutto di lava nelle campane, con tutti i Buddha dentro, una cosa che il Duomo di Milano fa ridere. E conoscevano quello, erano in una. Ma che ci facevano loro col silicio? Ma avevano le batterie. Lei deve sapere che in Indonesia la Pertamina è la quinta compagnia petrolifera del mondo, che vende tutto ai giapponesi, dove l'Indonesia ha fatto solo una guerra con appunto il Giappone. Adesso lei va nei villaggi, trova il televisore a diodi, trova le fibre ottiche e loro continuano a essere tribali. E in Indonesia non la smuove nessuno perché la popolazione mangia. Nell'84 non c'era ancora un censimento, addirittura c'è i sultanati, Singaraja, Surabaya, Belem, Traben, tutti quei posti lì dove c'è un sultano che è legato, è parentato con il sultano del Bahrain e addirittura vota per 10 milioni di persone. Gli australiani hanno fatto un film bellissimo, mi sembra, se non erro, che si chiamasse La lunga notte dei coltelli, dove a Giacarta il movimento studentesco venne annientato in una notte con 15.000 morti, tutti uccisi col macete, rigorosamente in silenzio. Una bella storia. Ma lei l'ha vissuta di persona questa vicenda? Ero lì, indirettamente. Ma non durante la notte dei macete, no? No, io ero a 2000 km di distanza, fortunatamente. Io sempre, in Indonesia, mi sono sempre rifugiato dove ci sono gli induisti, mai nei paradisi economici dei musulmani, perché sono terribili. Pensi che io ho portato in aereo più di una volta su Suharto e su Marco, i due dittatori. Pensi che a Giacarta c'è 1800 jet privati matricolati. Lei va nella giungla e trova gli elicotteri. 5-6 mila persone comandano un paese di una ricchezza immensa, dove è 8400 km di coste, dove hanno tutto, non ne manca niente. Ma lei gliene è rimasta attaccata un po' di questa ricchezza, visto che ci ha passato dei periodi, cioè ci ha lavorato in maniera... Mettiamo le mini briciole dal sistema, cosa ho preso, ma ad esempio col silicio io mi c'ero buttato a fionda, ma non si può andare contro le multinazionali americane. Beh, lì è chiaro, è il commercio che non è che ci si può mettere in mezzo. Sì, sa, colpo di pistola parte per caso, te lo prenderla in testa. È la cosa più bella, l'attività più bella che ho fatto nella mia vita, Mombasa, in Kenya, che ero andato per turismo e mi sono fermato 5-6 mesi, ho conosciuto indiani, pakistani, perché Mombasa è indiana e pakistana, e si prendeva le conchiglie, l'avorio, il gusci di tartaruga, il legno, il sandalo, l'opale, e si faceva i bottoni, li facevamo per l'haute couture. Perché non lo faceva nessuno, già ci ha pensato lei, un'idea è stata. Più che altro me l'ha suggerita un indiano. Cioè una start-up, diremmo oggi, ha fatto. Sì, ma abbiamo venduto, è venuto a trovare Fiorucci, Valentino, vendevamo l'haute couture alla grande. Sa, sei bottoni per dire $100 a bottone. Beh, se erano originali, fatti con la tartaruga. Poi la tartaruga non si può più catturare. Era estinta. L'avorio non si può più prendere. Pensi che io ho conosciuto uno che fa gli ossi per l'osso di cavallo, che serve per, questo l'ho visto anche in Sud America, che lo usano il cocquero. Sa quello che piantano nei prosciutti, col lago? Oddio, l'osso del prosciutto? Per sapere se il prosciutto è buono, è buono, deve essere un osso di cavallo. perché il cavallo nell'osso non ha il midollo spinale. Ma scusi, e quindi assorbe tutti i sapori, tutto il resto, e non c'ha retrogusto di niente. Ma del maiale mettono la ciccia, la carne, e del cavallo l'osso. L'osso. Prosciutto, ma non l'hai mai vista questa cosa? No, ma non mi ha frainteso. Per gustare, sentire l'odore del prosciutto. Ah, pensavo che scambiano l'osso del maiale con l'osso. È fatto solo di osso di cavallo. Ah, lei faceva l'ago dell'assaggiatore del prosciutto? Sì. Cioè lei prendeva i cavalli, ci faceva tanti stuzzicadenti e che vendeva agli infilatori di prosciutto. Non ce n'ho ancora, se vuole rimasto. No, ne sento la mancanza, non l'ho mai avuto. Così io compro già fette proprio. E c'era addirittura i coqueros, quelli che usavano per la droga, per vedere se i panni di droga erano efficienti. Quindi va bene per tutte le cose, uno può infilarlo dove vuole e sente se è buono. Esatto. Proprio vabbè, dove vuole, non perché fa un po' male. Ci fermiamo lì perché mi sembra che in questo momento io sto per arrivare alla mia destinazione, ma non voglio farle dire troppe cose perché sennò si inflaziona. Vabbè, se ci incontriamo di nuovo. Io ormai conosco la sua tratta, la vengo a cercare ogni settimana perché chi mai mi racconterà tante cose? Poi anche lei sarà in via d'estinzione. Vabbè, quindi poi le racconto dei personaggi che non abbiamo avuto. È la domanda che avevo fatto oggi, ma ci sentiamo per la prossima settimana. A presto. Arrivederci, dottore. Grazie, buon viaggio. Ho cominciato a raccogliere dalle mie memorie di viaggiatore quelli che erano gli episodi più paradossali. Quegli incontri che mi sono stati ispiratori di storie al limite della realtà, però realistiche, però vere, però le persone che me le hanno riferite mi hanno fatto giurare che mai le avrei trasmesse dalla loro viva voce, quindi mi trovo costretto a farvele ascoltare riscritte e reinterpretate. I nomi naturalmente sono di fantasia, di grande fantasia, ma le storie di questi nostri protagonisti sono assolutamente vere. Francavilla Doris ha 48 anni. Da molto tempo è divorziata con figli adulti che vede poco. Si conserva più che bene, quasi ogni settimana si concede una storia diversa e sempre in trasferta. Facebook è il mio last minute erotico. Mai troppo lontano, mai troppo vicino, è la mia unica regola. Insomma, c'è chi al weekend gira per musei, chi per mercatini, chi per città d'arte. Francavilla Doris gira per carne di maschio, usa e getta. Almeno così pensava fino a che nel suo territorio di caccia non è entrato Pereira Silvan. Uomo educato, profondo, divertente. Con lui la fase social network più telefonata è durata parecchi mesi. Era anche ricco, mi faceva vedere le foto delle sue case. Quando gli confessai che avevo problemi con l'affitto, lui mi fece un bonifico. Doris era convinta che fosse l'uomo della sua vita, così fissò il grande incontro. Questa volta sì, pieno di attese. Quando quel venerdì sera scese dal treno a Padova, lo vide che aspettava. Era un nano. Non un uomo basso, proprio un nano. Oddio, ci sono rimasta un po' male, poteva dirmelo. Nelle sue foto su Facebook faceva vedere solo la faccia, infatti mi sembrava strano. Tra lei e Pereira Silvan comunque c'era un rapporto, andarono a cena insieme. Lui le raccontò la sua storia di figlio adottivo e poi erede. Fu affabile e abile, tanto che la portò a casa sua. Bella casa, anche se molto kitsch. Stavamo sul divano con addosso la coperta leopardata e guardavo i suoi piedini sospesi accanto alle mie ginocchia. Non me la sentii proprio di farci l'amore, ma non volevo sembrare scortese, così lo accontentai con un rapporto orale. Per il residuo di quella notte il signor Pereira dormì avvinghiato alla sua Biancaneve. La mattina dopo le portò la colazione a letto. Francavilla Doris tornò a Milano il giorno stesso e non si fece mai più viva con lui. You look like a perfect fit for a girl in need of a tourniquet. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Si fanno grandi ipotesi da un certo punto di vista su quelli che sono i nuovi schemi di raggruppamento familiare.

di un uomo che vive con due donne non faccia pensare, immaginare chi mi ascolta a dei paradisi di dissoluzione. In realtà questo signore ha due mogli. Non è che fa giochi complicati, erotico, amatoriali con due donne che gli permettono di dare sfogo alle più incredibili e indicibili fantasie. No, è un omino di casa, schiavo di due mogli che lo mettono a lavorare e che, alleate tra di loro, ne fanno il loro uomo trastullo. Bisogna cercare di equilibrare, di ricordarsi i compleanni, le feste, cercare di abbinare magari se fai una settimana in più di qua, dopo fai recuperi di là, cerchi di equilibrare queste due cose, ecco, non è facile, ammetto che non è facile, perché non è facile, però l'importante è il dialogo, ecco, parlare. Per mantenere questo equilibrio devi dare tanto, ma tanto non sul piano fisico o ormonale, devi dare tanto, ma tanto sul piano umano. Che delle volte dico, ma non era meglio forse che rimanevo da solo? C'è chi ci ride sopra perché è molto superficiale e ci ride sopra perché è superficiale, guarda magari con una punta di invidia, e c'è chi invece magari complimenta e ammira perché dice, sei stato te stesso e non sei stato strumentalizzato e non sei stato soggiogato dai pregiudizi, dai tabù, e sei stato te stesso. E parecchi mi hanno anche ammirato per essere se stessi, come conosco anche tanti conoscenti miei dove si trovano nella identica situazione e soffrono le pene dell'inferno proprio perché non sanno come venirne fuori. Non si riesce a amare, cioè sentimentalmente, due donne. Io amo una donna, però sto bene con tutte e due. Solo che la seconda è quella che amo, la prima è quella che rispetto, dove se vuol lasciare, partire, andarsene è libera, se vuol rimanere rimane. E la seconda come fa ad accettare una situazione del genere? La seconda è accettata una situazione del genere in quanto dopo lunghi discorsi, averne parlato, non era neanche giusto che una persona che era stata con te per tanti tanti anni ti risenti, questo è l'assegno mensile e vattene, e lasciarla nella profonda solitudine, chissà, forse per la vecchiaia ci arriveremo a dormire, a russare tutti e tre senza far niente, però è logico che il sogno sarebbe quello lì. L'importante di tutto questo, che sei a 3, che sei a 4, che sei a 5, che sei a 6, che sei a 2, che sei solo, di rimanere sempre rispetto di se stessi e di chi è intorno a te. Questo è il bello, il rispetto di se stessi. Alla base di tutto dire, io vivo una sola volta. Allora, ho bisogno di vivere, mi servono anche i soldi, ma devo anche vivere. Perché a 50 anni poi o rimpiangi quello che non hai fatto, o rimpiangi di non aver vissuto abbastanza. Io invece oggi posso dire, se muoio domani, muoio felice, col sorriso sulle labbra, perché mi dispiace di morire, quello sì, perché apprezzo la vita, vorrei vivere 300 anni. Però dall'altra parte dico, ho dato un equilibrio, ho saputo lavorare e vivere, ho saputo dare un senso alla mia esistenza, ecco. Come disse lo scienziato che lo aveva creato e lo aveva trasformato in qualcosa che somigliava a un uomo, al mutante di Blade Runner, nel momento in cui gli chiede disperatamente, voglio vivere ancora, dice, tu sei come una candela che ha bruciato da entrambi i lati, quindi è bruciato il doppio, quindi questo signore si è bruciato la vita, anche se voleva vivere alla grande, il doppio che gli altri, morirà felice, ma morirà sicuramente bene. Ecco qui un'altra storia di quelle indicibili che non posso farvi ascoltare dai diretti protagonisti, ma sono stato costretto a far interpretare alla voce misteriosa della donna che mi segue nei miei viaggi e forse, ma non è detto, sarà quella che mi attenderà alla fine del mio viaggio. Questa è una storia di adulterio, una storia di amore di scrivania, è una storia di grande amore, grande passione, nata in un ufficio e finita in un obitorio. Paparelli, Virgilia in Favaretto divise per 10 anni la stanza d'angolo dell'ufficio Visure del Catasto con Pispola Vittorio coniugato Bertuccelli. Per 10 anni furono amanti con segreto ardore e nessuno lo sospettò mai. Si erano organizzati ogni impegno familiare e sociale per starsi mimetici accanto, figli nella stessa scuola, cenette con i coniugi, gite con amici comuni. Allo scadere del 10° anno, Paparelli Virginia decise di uscire dalla clandestinità. Dette al Pispola un ultimatum, vivere assieme. O lei avrebbe chiesto di cambiare ufficio. Pianificarono il loro coming out incrociato. Lo stesso giorno, alla stessa ora, comunicarono ognuno alla rispettiva famiglia quel peso amoroso che portavano nel cuore da un decennio. Nessuno sconto fu loro fatto, nessun ricatto su consanguineo fu loro risparmiato. Per il mondo dei loro ex affetti divennero entrambi porci, villani, infami e traditori. Erano però liberi di amarsi alla luce del sole, mai più nascosti nella penombra delle pratiche ammucchiate sui tavoli, complici lampadine fulminate, vetri anneriti dallo smog. Partirono con la nave da Piombino alla volta di Olbia. Sarebbe stata la loro prima vacanza da soli e senza l'ansia di doversi nascondere. Il secondo giorno lui si sentì debole. Gli salì poi un mal di testa fulminante. Quando entrò in coma all'ospedale si parlò di leucemia. Non arrivò vivo al venerdì. Paparelli Virginia riprese il traghetto di ritorno con Vittorio avvolto nello zinco della bara. Non fu suo da vivo, ma neppure da morto. L'unica moglie legittima aveva tutto il potere su ciò che restava del suo amore. Impedì persino che gli fossero espiantati gli organi ancora buoni come lui avrebbe voluto. La vendetta perfetta della sposa ferita pretese che nemmeno un rene di Vittorio restasse in vita per Virginia. Il marito, signor Favaretto, non la volle mai più vedere, i figli nemmeno. Virginia ora era sempre sola. Il treno va. Ed ecco, finalmente arrivati all'audiolettera, alla storia struggente d'amore che mi viene sottoposta perché io dia il colpo finale alla persona che mi pone nelle mie crudeli mani il suo fragile cuore e vuole che in qualche maniera dia conforto e sia farmaco al suo dolore amoroso. E ancora una volta io farò esattamente il contrario. Condurrò questa persona fino all'orlo del precipizio pregandola di buttarsi giù perché ha sbagliato a scrivere. Oggi ho deciso di raccontarti il pensiero che si è insinuato da qualche tempo nella mia mente e mi sta rosicchiando energie e tranquillità, un tarlo da cui non riesco a liberarmi. Tutto è iniziato così, da un'occhiata distratta alla sua agendina nera, quella in cui scrive tutto, dalla lista della spesa agli indirizzi mail dei suoi clienti. Un nome femminile e un numero di telefono scritti di traverso, di fretta e con una grafia che non è la sua, infilato lì, tra mille altri appunti. Sarà che l'istinto femminile è più forte di quanto non crediamo? Sarà che è una potenza in grado di scavare fra mille volti, mille immagini, mille nomi e trovarne uno, uno solo, quello in grado di costruire giorno dopo giorno il sospetto. E così quel nome diventa un pensiero intrusivo, dapprima solo fugace e poi diventa costante nella tua giornata. Si ingigantisce nella tua mente fino ad invaderla completamente. Hai quasi paura a sillabare ad alta voce quelle lettere, come se non pronunciandole tu ne possa annullare l'esistenza. Ed allora ho iniziato a cercare, non so nemmeno io cosa, a cercare nella sua stanchezza, nei suoi sguardi, nelle sue risate, nelle sue carezze, i segni di un'altra, perché un'altra lascia sempre qualcosa di sé nel tuo uomo. È un qualcosa fatto di espressioni nuove. È l'improvvisa curiosità per una città, per un film. Magari è una canzone che lui inizia a canticchiare o una parola che non gli hai mai sentito dire prima. Ed allora, ogni mio discorso, ogni nostra chiacchierata, ogni cena, ogni passeggiata è da parte mia una sottesa indagine. Non credo lui lo abbia capito. Non ho mai fatto accenni ai miei sospetti né domande dirette, ma cerco, instancabile. Cerco fra le sue carte, cerco nei suoi spostamenti, nei 5 minuti di ritardo, nel telefono occupato, qualcosa che mi dica che ho ragione. Eppure i suoi sguardi sono per me. Le carezze sono le stesse, il suo abbraccio non è cambiato, le attenzioni sono invariate. Questa nostra cara ascoltatrice e viaggiatrice ha fatto quell'operazione scellerata, che può avere un valore poetico ma senz'altro distruttivo, che è stata già descritta dal sommo maestro Miyazaki nel suo romanzo La Chiave, di cui noi abbiamo una vulgata piuttosto crassa e piuttosto volgare nel film di Tinto Brass con il culo di Stefania Sandrelli, al tempo che ancora vale la pena guardarlo nel suo splendore. Beh, oggi dobbiamo far comprendere la nostra ascoltatrice che il fatto di coltivare in sé il sospetto di un tradimento amoroso è un rovello che per qualcuno aumenta l'acme, il desiderio e dà strumenti per nuove fantasie, magari in rapporti piuttosto stanchi, peraltro altro non è che il veleno che goccia dopo goccia si infligge e si beve autonomamente per sua stessa scelta la persona che vuole distruggere dentro di sé ogni parvenza di un rapporto amoroso. E allora cosa voglio? Mi rendo conto di inseguire un fantasma. Forse è tutto nella mia mente, dirai. Però è come se sperassi di trovare qualcosa. Come un ipocondriaco che continua a fare esami su esami sperando in fondo di trovare una malattia. E mi chiedo cosa farò se ciò dovesse accadere, se dovessi scoprire che ho ragione. Sento che potrei fare finta di niente pur di tenere vicino a me l'uomo che amo. Perché nonostante io senta addosso una fatica enorme, come se mi trascinassi dietro un macigno, io che sono innamorata. E non so quanto potrei sostenere il peso di un pensiero che sfinisce, che mi ricorda continuamente che io non sono l'unica. Certo, la cosa apparentemente più ovvia sarebbe quella di affrontarlo a viso aperto, chiedergli conto di quel nome e numero sull'agendina e dei suoi impercettibili cambiamenti, dirgli apertamente quanto io stia soffrendo tacitamente. Ma ahimè, a che servirebbe? Sono convinta che negherebbe anche se il mio sospetto fosse fondato e non avendo io prove schiaccianti, già so che reagirà male, che mi darà della paranoica, insomma finirei per essere cornuta e mazziata. Ma forse la cosa peggiore che temo più di tutto è che lui confessi e che ammetta apertamente di tradirmi. Peggio, che ama un'altra. Forse vigliaccamente ho paura di questo, ma io ho sempre criticato, vedendo le altre coppie, quelle mogli o fidanzate che chiudono gli occhi e fanno finta di non vedere. Io ho sempre rifiutato l'ipocrisia del si fa ma non si dice, pur di mantenere un quieto vivere. E ora invece mi trovo a comportarmi esattamente nel modo in cui meno mi riconosco. Gianluca, dimmelo tu. Cosa devo fare? Devo affrontare apertamente i miei dubbi, andando incontro a tutto ciò che questo vorrebbe dire. A volte mi sento come l'eroina di quei romanzi ottocenteschi, tormentata da immaginari e pene d'amore. Sono così strana? Fammi capire dove sto sbagliando. Rosanna. Cara amica, tu dubbi li avrai sempre, anche di fronte a un eunuco che ti dichiara la sua omosessualità latente, che ti fa capire che sei l'unica donna al mondo per lui, che per lui non ci sarebbe altra donna. Tu vivi soltanto nel coltivare un sospetto, perché probabilmente il tuo vero sospetto è di non essere adeguata, non essere all'altezza, di non essere pronta, di non essere degna. Sono problemi tuoi, insomma, ti suggerisco uno psichiatra, uno psicanalista, un prete, chi vuoi tu, o un plotone di alpini, reduce da una lunghissima battaglia al fronte che non ha mai visto una donna da almeno 70 anni. Nunca è sufficiente para mí, porque siempre quiero.